Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizio, il momento su Radio 24 dei fatti e i personaggi che raccontano la nostra Italia in controluce. Oggi ci occupiamo di quell'universo sotterraneo e dimenticato che sono le carceri italiane. Chiusi i cancelli, i problemi però non sono finiti, e non solo per chi sta dentro ma anche per tutti noi. Dalla qualità della vita all'interno del carcere dipende infatti anche il modo in cui i detenuti escono una volta riacquisita la libertà. Qua parliamo di sovraffollamento e del progetto galleggiante a Genova con Andrea Ferro. Le carceri scoppiano, i detenuti infiammano la protesta, gli agenti sono sempre meno, di nuovi penitenziari neanche l'ombra o quasi. Così, nella girandola di soluzioni tra provvedimenti legislativi ed interventi edilizi, ora si guarda verso il mare e all'orizzonte si staglia un progetto suggestivo, quello delle carceri galleggianti, saldamente ancorate in aree portuali dismesse o negli spazi lasciati dagli arsenali militari. Sulla carta c'è già uno schizzo della nuova struttura. A realizzarlo Fincantieri, che abitualmente sforna transatlantici di lusso. Una piattaforma lunga 126 metri, alta 34, in grado di ospitare fino a 640 detenuti. Due per cella, sistemazione simile alberghiera, vista mare chiaramente. Carceri così concepite potrebbero essere realizzate in tutte le principali città costiere, almeno una decina, tra le quali Genova. Salvatore Mazzeo è il direttore del penitenziario di Marassi, tra i più affollati, stretto tra le case, un centro commerciale e lo stadio, al punto che quando si giocano le partite, in gradinata nord c'è chi si gira dall'altra parte e parla con i familiari detenuti. Ecco cosa pensa del carcere galleggiante. Dopo 27 anni di servizio, certamente l'idea mi sembra stravagante sicuramente, però poiché noi ci dobbiamo sempre adattare a quelle che sono le novità, quindi se questa novità porta sicuramente a un miglioramento della situazione all'interno delle nostre carceri, l'accetto volentieri, però le dico che ho molte riserve, perché un carcere anche galleggiante deve avere determinati requisiti. Ecco, i requisiti che deve avere: l'accessibilità, tanto per cominciare, perché in un carcere ci sono detenuti e quindi ci occorrono che i familiari dei detenuti accedano a quell'istituto in maniera non troppo problematica. C'è del personale che anche qui deve andare sui posti di lavoro, quindi con possibilità anche di parcheggiare. Ci sono una serie di esigenze che devono essere prese in considerazione. La risacca delle perplessità che sbattono sul carcere galleggiante coinvolge gli agenti penitenziari, categoria da tempo in sofferenza. Roberto Martinelli, della Segreteria Nazionale del SAPPE. La soluzione delle carceri galleggianti può essere una soluzione che a livello generale si può valutare, vedere, percorrere, avendo tutte le garanzie su quelli che sono i termini economici di una soluzione di questo tipo e termini di fattibilità. Si può valutare tutto però con dati oggettivi in mano. Facendo le buttate, come è stata fatta recentemente, penso che si possa fare ben poco. Carceri galleggianti esistono negli Stati Uniti e temporaneamente sono state utilizzate anche in Olanda e in Gran Bretagna. Nel frattempo a Marassi la situazione è drammatica. Ancora il direttore del carcere, Salvatore Mazzeo. In questo momento abbiamo 734 detenuti, di cui 12 sono i semiliberi, cioè quelli che escono al mattino e tornano la sera perché svolgono attività all'esterno dell'istituto. È chiaro che è una situazione di grave sovraffollamento, perché a fronte di 450 posti abbiamo 734, quindi è la forza presente. Altrettanto grave è ovviamente la presenza del personale di polizia penitenziaria, perché di fronte a un organico di 472, che è l'organico previsto, ne abbiamo appena 306. Italia in controluce. E ora conosciamo un personaggio del mondo del teatro, un italiano i cui testi sono rappresentati anche all'estero con successo. L'ha intervistato Daniele Biacchessi. Renato Satti è triestino, è regista, drammaturgo che viene da lontano. Prima l'esperienza al Piccolo Teatro con John Jostrelle, poi l'incontro con Gabriele Salvatore e Celio De Capitani. Al Teatro dell'Elfo di Milano nascono i Comedians. Sono Paolo Rossi, Claudio Bisio, Bebo Storti, Silvio Orlando, Antonio Catania. Nel 1995, in occasione del cinquantennale della Liberazione, Satti dirige all'interno del Monumento Nazionale della Resina di San Sabbia uno spettacolo dedicato alla memoria offesa, una lettura scena basata su testimonianze di sopravvissuti alla deportazione e allo sterminio nazifascista. Da lì nasce la svolta di Renato Satti del Teatro Civile. La Resina di San Sabba è stato il primo testo su cui io mi sono cimentato rispetto ai temi della memoria storica. La Resina di San Sabba è stato l'unico campo, l'unico lager in Italia, tra le 2.000 e le 5.000 vittime, la maggioranza ostaggi civili, donne, vecchi, bambini che venivano portati dopo gli estremamenti fatti compiuti dalle SS, con la USI. delle camicie nere dei fascisti nell'altipiano carsico, e diciamo che quel testo nasce anche da quello che è stato il punto di partenza di un terzo della deportazione nazionale, cioè Trieste, e ho lavorato grazie alle testimonianze di raccolte da Marco Kosovic, da Silva Bon e dall'Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione su quelle testimonianze, cercando di trarne un testo, diciamo così, significativo. Questo è stato il primo, diciamo così, testo di ambientazione di un tipo proprio storico, memoria storica. E poi, diciamo, con dei cambiamenti, cioè nel tentativo di rendere anche questo materiale adatto al teatro, tentativi anche incursioni nel comico, abbiamo parlato sia dei migranti, parlando della nave fantasma, di quella che è stata la più grande tragedia nel Mediterraneo dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè l'affondamento di una barca con 293 migranti a sud di Porto Palo, estremo sud della Sicilia. Poi ultimamente con il testo Chicago Boys, che parla di quello che non hanno fatto la scuola dei Chicago Boys di Milton Friedman, il liberismo più sfrenato. Nel tuo teatro contano i luoghi e conta anche la documentazione. Per esempio, tu parlavi nello spettacolo sulla Risiera di San Sabba di un lavoro che parte dalle testimonianze. La testimonianza è fondamentale, perché non solo dal punto di vista storico, questo è stato il secolo precedente, diciamo così, ha iniziato, ha inaugurato un'era importantissima, quella della testimonianza. Un libro che io consiglierei a tutti, quello dell'Anna Bievorkan, che proprio parla l'era della testimonianza, ma l'importanza della testimonianza non è solo quella a livello storico, anche a livello di teatrale, cioè quanto i teatranti oggi si sono accorti che la testimonianza può essere la base per un processo teatrale. Personalmente potrei dire che queste testimonianze, parliamo di quelle della Risiera di San Sabba, ma anche quelle del Fantasma, anche quelle di Nome di Battaglieria, eccetera, per me sono state non solo un punto di riferimento fondamentale dal punto di vista storico, civile, umano, sociale, politico, ma anche dal punto di vista teatrale, cioè il riscoprire all'interno di queste testimonianze un valore anche drammaturgico. Molte volte queste persone scrivono, anche se non scrivono, a volte parlano, diciamo così, via orale, non scritta, hanno delle intuizioni di carattere teatrale che sono autentiche lezioni per noi drammaturghi, sempre che abbiamo, se abbiamo la modestia, diciamo così, l'umiltà di cogliere la profondità di queste testimonianze. È tutto per Italia in Controluce, ci sentiamo oggi all'edizione delle 13:30, buona giornata.